Il terzo anello ad alta voce. La certosa di Parma di Stendhal. Quel genere di vita che faceva il marchese, standosene ritirato a brontolare, non era certo molto divertente, ma aveva il vantaggio di arricchire stabilmente chi aveva la bontà di adattarcisi. Il marchese, con una rendita di più di 200.000 lire, non ne spendeva neanche un quarto. Viveva di speranze. Durante gli anni dal 1800 al 1813 continuò a portare avanti la sua incrollabile fiducia nella caduta di Napoleone entro 6 mesi al massimo. La notizia del disastro della Beresina al principio del 1813 lo mandò in estasi. Quando seppe della caduta di Parigi e della fine di Napoleone, per poco non impazzì e si sentì autorizzato a ingiuriare ferocemente la moglie e la sorella. Poi, dopo 14 anni di attesa, ebbe la gioia inesprimibile di vedere le truppe austriache rientrare in Milano. In obbedienza agli ordini di Vienna, il generale austriaco ricevette il marchese del Dongo con un riguardo che sfiorava il rispetto. Si affrettarono a offrirgli uno dei posti più importanti al governo e il marchese lo accettò come se gli pagassero un debito. Il suo figlio maggiore fu nominato tenente in uno dei più bei reggimenti del regno, ma il minore non volle mai accettare il posto di cadetto che gli offrivano. Il marchese si godeva con rara tracotanza il suo trionfo. Ma non durò molto e la conclusione fu umiliante. Non aveva mai avuto talento per gli affari e i 14 anni passati in campagna tra camerieri, notaio e dottore, cui si aggiungevano ormai i malumori della vecchiaia, ne avevano fatto un uomo assolutamente incapace. Così un bel giorno il marchese fu informato che Sua Maestà si degnava graziosamente di accettare le sue dimissioni e lo nominava secondo gran maggiordomo maggiore del Lombardo-Veneto. Il marchese si indignò per l'atroce ingiustizia di cui era stato vittima e proprio lui, che esecrava la libertà di stampa, fece stampare una lettera a un amico in cui commentava l'accaduto. Poi scrisse all'imperatore che i suoi ministri lo tradivano e non erano altro che dei giacobini, e se ne tornò malinconicamente nel castello di Griante. Da 5 o 6 anni, per fortuna, la contessa era molto amica di un giovanotto ricchissimo, intimo amico anche di suo marito, che non tralasciava mai di mettere a loro disposizione i suoi cavalli inglesi, i più belli di tutta Milano, il suo palco alla Scala e la sua villa in campagna. Ma Pietranera, consapevole del proprio coraggio e pieno di slancio, aveva un carattere impetuoso e allora si lasciava andare a far discorsi pericolosi. Un giorno era a caccia con un gruppo di giovanotti. Uno di questi, che aveva combattuto con gli austriaci, incominciò a scherzare sul coraggio dei soldati della Repubblica Cisalpina e Pietranera gli diede uno schiaffo. Si batterono immediatamente. Il conte, in mezzo a tutti quei giovanotti, non aveva nessuno che lo spalleggiasse e fu ucciso. Si parlò molto di quella specie di duello e coloro che vi erano stati coinvolti pensarono bene di andare a fare un viaggio in Svizzera. Quel ridicolo coraggio che chiamano rassegnazione, il coraggio di uno sciocco capace di lasciarsi impiccare senza dire una parola, non era cosa per la contessa. Furente per la morte del marito, avrebbe voluto che Limercati, quel giovanotto ricchissimo, suo intimo amico, si facesse venir voglia anche lui di fare un viaggetto in Svizzera e andasse a schiaffeggiare o a prendere a fucilate l'uccisore di Pietranera. Limercati trovò l'idea semplicemente ridicola e la contessa sentì che in lei il disprezzo aveva ucciso l'amore. Thank you. Limercati passò 3 anni in campagna. Tornava a Milano ogni 2 mesi senza aver mai il coraggio di restarci, annoiando i suoi amici con il suo amore appassionato per la contessa e con la storia particolareggiata delle bontà che lei una volta gli aveva usato. I primi tempi diceva anche che lei si buttava via con il conte N, che una relazione come quella era un disonore. In realtà la contessa non era affatto innamorata di N e glielo disse chiaro e tondo quando fu ben sicura di aver portato Limercati alla disperazione. Il conte, che era uomo di mondo, la pregò di non divulgare la triste verità che gli aveva confidato. «Se avrete la bontà», aggiunse, «di continuare a ricevermi con tutti i riguardi esteriori dovuti all'amante in carica, io riuscirò a sistemare le cose in modo opportuno». Dopo questa eroica dichiarazione, la contessa non ne volle più sapere dei cavalli e del palco di Enna. Ma da 15 anni era abituata a una vita elegantissima e ora avrebbe dovuto risolvere un problema molto complicato, o per meglio dire, impossibile: come vivere a Milano con una pensione di 1500 lire. Lasciò il palazzo dove abitava, prese in affitto 2 stanze al 5° piano, licenziò tutti i domestici e persino la sua cameriera personale, sostituendola con una vecchietta a mezzo servizio. In realtà non era poi un sacrificio eroico e doloroso come potrebbe sembrarci. A Milano la povertà non è una cosa ridicola e per questo non è considerata il peggiore dei mali possibili. Per qualche mese la contessa visse dignitosamente la sua povertà, assediata dalle continue lettere di Limercati e di Enna, che voleva sposarla anche lui. Poi il marchese del Dongo, nonostante la sua sordida avarizia, incominciò a pensare che i suoi nemici avrebbero potuto goderne della miseria di sua sorella. Come? Una del Dongo ridotta a vivere con la pensione che la corte di Vienna, del cui comportamento lui non era per niente soddisfatto, accorda alle vedove dei suoi generali. E scrisse alla sorella offrendole una sistemazione degna di lei al castello di Griante. La contessa, con il suo carattere mutevole, si entusiasmò all'idea di cambiar vita. Erano 20 anni che non era più stata in quel vecchio castello maestoso, in mezzo al bosco di castagni piantati al tempo degli Sforza. Là, pensava, potrò riposarmi, e alla mia età riposare non vuol forse dire essere felici? Aveva 31 anni e credeva che fosse arrivato il momento di tirarsi in disparte. Ci sono nata su quel bel lago, ci starò bene, serenamente. Il 7 marzo 1815 Gina e la cognata, tornate da poco da una deliziosa scappata a Milano, stavano passeggiando lungo il viale dei Platani, che ora arrivava fino alla riva del lago. Videro venire una barca dalla parte di Como. Qualcuno a bordo faceva grandi segni. Poi un agente del marchese saltò sul molo. Napoleone era sbarcato nel golfo di Juan. L'Europa aveva avuto l'ingenuità di restarne sorpresa, ma il marchese del Dongo no. Lui scrisse al suo sovrano una lettera molto commossa, mettendo a sua disposizione la propria abilità e parecchi milioni, e ripetendogli che i suoi ministri erano tutti giacobini d'accordo con i sovversivi di Parigi. L'8 marzo, alle 6 della mattina, con addosso tutte le decorazioni, stava facendosi dettare da Ascanio la minuta di una lettera a Vienna, era già la terza, e si dava da fare con grande austerità e applicazione a scriverla in bella calligrafia su un foglio di carta con il ritratto di Sua Maestà in filigrana. Nello stesso momento Fabrizio entrò nella stanza della contessa Pietranera. «Parto», le disse, «vado dall'imperatore, che è anche re d'Italia». Aveva tanta amicizia per tuo marito. Passerò per la Svizzera. Vasi, quel mio amico, quello che vende barometri, mi ha dato il suo passaporto stanotte a menaggio. E adesso dammi un po' di soldi, perché ho solo 2 napoleoni, ma se occorre andrò a piedi. La contessa si mise a piangere. Era spaventata e felice. Dio mio, doveva proprio venirti un'idea simile, gridò, e prese le mani di Fabrizio nelle sue. Poi si alzò e andò a prendere nell'armadio della biancheria una piccola borsa ornata di perle, ben nascosta. Era tutto quello che aveva. «Prendi», disse a Fabrizio, «ma per amor di Dio, non farti uccidere. Che cosa ci resterebbe a me e alla tua povera mamma? Quanto a Napoleone, sarà ben difficile che riesca. Quei signori troveranno il modo di rovinarlo. Hai sentito parlare anche tu a Milano 8 giorni fa di quei 23 complotti per assassinarlo. Erano tutti studiati alla perfezione e lui è scampato per miracolo, e sì che allora aveva in mano tutto il potere. Non è certo la volontà di rovinarlo che manca ai suoi nemici, e la Francia, quando le è mancato, non era più niente. Gli occhi di Fabrizio si riempirono di lacrime, la abbracciò, si mise a piangere, ma era sempre deciso a partire e con grande entusiasmo spiegò alla sua cara amica tutte le ragioni che lo avevano portato a quella decisione, ragioni che ci prendiamo la libertà di trovare piuttosto divertenti. Ti ricordi ieri sera, erano esattamente le 6:07, quando stavamo passeggiando in riva al lago sul viale dei Platani, sotto la villa Sommariva, e camminavamo verso sud? È là che ho notato per la prima volta quella barca che veniva da Como a portarci la grande notizia. La stavo guardando e non pensavo assolutamente all'imperatore. Stavo solo pensando a come sono felici quelli che possono viaggiare. E di colpo mi sono sentito tutto emozionato. La barca è arrivata. Quell'uomo si è messo a parlare sottovoce a mio padre e poi lui è diventato pallido e ci ha preso da parte per darci la terribile notizia. Mi sono voltato verso il lago solo perché non volevo far vedere che piangevo dalla gioia. E in quel momento ho visto molto in alto, alla mia destra, un'aquila, l'uccello di Napoleone, e volava verso la Svizzera e dunque verso Parigi. Ho pensato subito, anch'io attraverserò la Svizzera, rapido come quell'aquila, e andrò a offrire a quel grande uomo il mio debole braccio, anche se non è molto, e tutto quello che ho. È lui che ci ha offerto una patria e voleva bene a mio zio. E poi, è strano, vedevo ancora l'aquila e non piangevo più, e sono sicuro che ci doveva essere qualcosa di soprannaturale, perché in quello stesso momento, senza neanche pensarci, mi sono deciso e ho capito come avrei dovuto fare per il viaggio. In un batter di ciglia, tutte le malinconie che avvelenavano, lo sai, la mia vita, specialmente la domenica, furono spazzate via come da un soffio divino. E ho visto la nobile figura dell'Italia rialzarsi dal fango in cui i tedeschi la tengono immersa e tendeva le braccia martoriate, ancora cariche di catene, verso il suo re, verso il liberatore. E io mi sono detto, figlio ancora non conosciuto di questa madre sventurata, io partirò, andrò a morire o a vincere con quest'uomo predestinato che ha voluto lavarci dall'onta per cui ci disprezzano persino i più schiavi e i più vili tra i popoli d'Europa. La signora Pietranera si era fatta pensierosa e si sentì in dovere di fare qualche obiezione. Se Fabrizio avesse avuto un po' di esperienza, si sarebbe accorto che neanche la zia credeva alle buone ragioni che gli stava esponendo. Ma in mancanza di esperienza aveva una gran decisione e non volle neanche ascoltarla. Quando seppe dello strano progetto di Fabrizio, la marchesa scoppiò a piangere. Lei non sentiva l'eroismo che c'era in quella decisione e fece tutto quello che poté per fargli cambiare idea. Ma quando si convinse che il solo modo per impedirgli di partire sarebbe stato di chiuderlo in una prigione, gli diede i pochi soldi che aveva. Poi le vennero in mente certi piccoli diamanti, una diecina, che suo marito le aveva dato perché li portasse a Milano a far montare. Li prese e incominciò a cucirli dentro la fodera della giacca del nostro eroe. Fabrizio cercava di restituire a quelle povere donne i loro miseri napoleoni. In quel momento entrarono le sue sorelle. Quando seppero del suo progetto, si lasciarono prendere dall'entusiasmo, lo baciavano, gridavano di gioia e finirono per fare tanto rumore che Fabrizio si mise in tasca gli ultimi diamanti e volle partire subito. «Mi fareste scoprire senza volerlo», disse alle sorelle, «e con tutti i soldi che ho, è inutile che porti della roba, se ne trova dappertutto». Poi abbracciò quelle persone che gli erano tanto care e partì immediatamente, senza neanche passare dalla sua camera. L'imperatore era a Parigi e a Parigi incominciarono i guai. Fabrizio era partito deciso a parlare all'imperatore. Non gli era mai passato per la testa che potesse essere una cosa complicata. A Milano vedeva il principe Eugenio 10 volte al giorno e avrebbe potuto parlargli quando lo avesse voluto. Ma a Parigi, benché andasse tutte le mattine nel cortile delle Tuileries, quando Napoleone passava in rivista le truppe, non riuscì mai ad avvicinarlo. Il nostro eroe credeva che tutti i francesi fossero ansiosi quanto lui di fronte al gravissimo pericolo che correva la nazione. In albergo con i vicini di tavola non fece mistero dei suoi progetti e della sua devozione all'imperatore e trovò certi simpaticissimi giovanotti, ancora più entusiasti di lui, che si affrettarono a derubarlo in pochi giorni di tutti i soldi che aveva. Per fortuna non aveva parlato dei diamanti e se non lo aveva fatto era stato per pura modestia. Una mattina, dopo una festa, si rese conto che lo avevano completamente ripulito. Comprò 2 cavalli, si prese come domestico un ex soldato stalliere del mercante che glieli aveva venduti e, pieno di disprezzo per quei giovanotti parigini, tanto abili nel parlare, partì per raggiungere l'esercito. Tutto quello che sapeva era che l'esercito stava radunandosi dalle parti di Maubeuge. Appena arrivato al confine, decise che sarebbe stato ridicolo chiudersi in una casa al caldo davanti a un bel caminetto mentre i soldati bivaccavano all'aperto. E senza ascoltare i consigli del domestico, un tipo di buonsenso, incominciò ad aggirarsi molto imprudentemente tra i bivacchi più avanzati sulla strada per il Belgio. Al primo battaglione che incontrò lungo la strada, i soldati si misero a guardare quel giovane borghese senza niente addosso che assomigliasse a una divisa. A notte incominciò a tirare un vento freddo. Fabrizio si avvicinò al fuoco di un bivacco e offrì dei soldi perché lo ospitassero. I soldati si guardarono in faccia. Quello che non capivano era soprattutto la sua idea di pagarli. Comunque furono gentili e lo lasciarono avvicinare al fuoco e il domestico gli preparò un posto per passare la notte. Ma un'ora dopo passò lì vicino l'aiutante del reggimento e i soldati gli raccontarono di quello straniero che parlava male il francese. L'aiutante volle interrogarlo e Fabrizio gli parlò del suo entusiasmo per l'imperatore in un tono estremamente sospetto, al che l'aiutante lo pregò di seguirlo dal colonnello, alloggiato in una fattoria vicina. Il domestico si avvicinò tirandosi dietro i due cavalli. Nel vedere i cavalli l'aiutante sembrò molto colpito, cambiò idea, incominciò a interrogare anche il domestico. Quello, che da buon ex soldato aveva capito perfettamente il piano di battaglia del suo interlocutore, accennò al fatto che il suo padrone era protetto da gente molto importante e aggiunse che nessuno si sarebbe certo permesso di soffiargli i suoi due bei cavalli. L'aiutante chiamò due soldati. Uno prese il domestico per la collottola, l'altro si incaricò dei cavalli. Poi l'aiutante ordinò bruscamente a Fabrizio di seguirlo senza aprir bocca. Camminarono a lungo. Con tutti quei fuochi intorno a perdita d'occhio, sembrava che fosse ancora più buio. Finalmente l'aiutante affidò Fabrizio a un ufficiale della gendarmeria che gli chiese i documenti con aria molto severa. Fabrizio tirò fuori il passaporto, sul quale era scritto che lui era un venditore di barometri con la sua merce al seguito. «Che razza di idioti!» gridò l'ufficiale. «Questa è davvero un po' troppo grossa!» Fece qualche domanda a Fabrizio, che parlò con il più grande entusiasmo dell'imperatore e della libertà. L'ufficiale della gendarmeria scoppiò a ridere. «Accidenti! Non sei davvero un furbacchione!» disse. «È il colmo! Hanno un bel coraggio a spedirci qui dei novellini di questo genere!» Fabrizio si buttò a cercare di spiegare affannosamente che in realtà lui non era un venditore di barometri, ma non c'era niente da fare. Verso le 3 di notte, infuriato, stanco morto, il nostro eroe si trovò chiuso nella prigione di B, un paesetto dei dintorni. Passando dallo sbalordimento alla collera, senza riuscire assolutamente a capire quello che gli stava capitando, Fabrizio trascorse in quella squallida prigione 33 lunghi giorni. Thank you.